vieni. Sfasolati per cochi sulla tua ospita. Ma le ciliegie, a parte che non ce ne sei, non sei mai. La prima sera o domani, lo vediamo. Se sono nella sua partita, devo passare dall'ospedale a mio padre, capito? Da capire come darteli là, hai capito? A dove ho detto le chiamate, quando non una chiamata, hai capito quello discorso? Ma vedo se li faccio comprare mia moglie, guarda questo romote, guarda del vivaio, solo che se li devi non faccio una faccia brutta, di risa annuso a che sia, capito? Mi dà 10 euro, capito? Te la faccio prendere una cassettina, te la domani fai la nave? E a che ora te ne vai più o meno? È positivo, dai. Dai, ferma, dai, fammi un cazzo. Quindi la finanza sul CMR deve mettere... Tutte e due le copie. Ma dove? quella pure dopo, perché con stacchia qualcosa fa, ma non con la fila. Vabbè, ma quando la metti in cortino, quello te lo giuccia tutta l'erba. Dobbiamo provare pure quando... È una robetta che fa ride, no, ma è un mazzo che si vede in me, la leccatella. La tengo. Se stavo la mettero... quintali per 3, 4 per 3, 12. E poi si è montato. Perché no, perché ci sono quintali che sono mantenuti un passo, dico. Ma io ti parlo 100 quintali. Consumato, si cadere Adesso? Sì. Che facciamo? Io come sto venuto al mio... apertura è quello che metterai, quello è di fondo, quello che non hai dato, e quello non ce l'ha, quello per mettere il congime, il soffrone. Sì, ma non sbagliate. Hai sbagliato, perché quello è solo che dopo ci devi stare, perché il soffrone no. Ma proprio la cassa col congime localizzato o il microgranulatore? Quindi c'ha due casse larghe più grosse e tre cassette piccoline, che quello è per il microgranulatore. Sì, deve essere più o meno questo modo. Se lo metti non sbagli mai. Non serve a niente. Se voglio portarci un po' di concime, mo che nasce la palmata, mi deve lo scritto di urea, glielo dai, che non gli entra tanto là, che è chiuso, non gli entra là dentro, però è troppo piccolo, mi devi mamare, tra le foglie e la frutta. Perché dopo che le metti a sacco, però se gli va il tocchetto di urea in mezzo alle foglie, brutta la pianta. Anche se l'attacqui. Lo scoglio, ma gli entra la lente. Se è un po' più grandicello, te lo senti di meno, capito? No. Allora, se mi permetti di darmi di dire, non dire. comando. Patente mia, no? Sì, c'è una frega d'essere. Una frega d'essere, non destra te, non lo so. Però c'è pure di borse. Ok Kappa, io ti ascolto bene, solo che lì c'erano tanti tuoi corregionali che cercavano di parlare, ma probabilmente tu lì vicino non li ascolti, ma qui mi arrivano con la propagazione. Allora lo metti in. Sono 4-4 miei. Eh sì Kappa, adesso c'è stato un calo di propagazione qui. Dai, mi arrivi molto bene quando apre la propagazione, è veramente un bel segnale. Prima Radio 5, ottimo direi. E oggi gran collegamento con la Sardegna, ho parlato con diversi operatori lì. Niente, mi fa piacere, dai, mi fa piacere anche riuscire in AM, non è semplice, io al momento sto uscendo con soli 25 watt, è un'antenna Game Master, ecco. Bene, a te allora Nuoro, mi ripeti il tuo cuore Z? Negativo, ho sentito banda laterale, sì, se vogliamo andare in USB proviamo. E mi arrivate tutti insieme, vi sovramodulate tutti insieme e riesco a sentire solo il tuo beep, perché veramente c'è tanta gente e boh, non so se tu li ascolti anche qui, ma c'è il pienone. Ok. No, io sto tornando alla casa abbandonata. Sì. ingassato però viola, ingassatissimo qui. Poi giù quando ripiana ci sta a sinistra, mentre scendi del lato della casa con la luna. Vai, sbaglio dallo al mapa, gli muore, da stavati e da chi te muore. Tu dici che ancora va a caricare, sì. Italia, my friend. Allo, my friend d'Italia. Allo. Allo, allo, allo. Come stas? Come stas? Mamma, mamma, sembra una potenza. Lo fuori, non ho una ora, non è bestia. Non ho capito, non ho capito. Ma... Allo, allo, allo, allo. Go. Ah, mi dice allora, vado, grazie. Stasera, come stas? Stasera, un primo, prima... Italy from Sardinia. Hello, break. I speak a little bit of English. Yes, Cristiano, I can hear you. This is Barry from the Netherlands. Hello. My name is Barry. Okay, Cristiano. You got here 9:40. Look out. Ciao, ciao, Cristiano. This is Hollanda's calling. Station 1, please, to go back. Yes, I'm from the Netherlands. Cristiano, Marcel from Holland. Northwest Germany, Northwest Alemania. Tango Delta Kilo, operator name is Andy. Okay, this is calling Hotel Echo November Kilo from the Nordic from Holland. My call 19 Romeo Foxtrot, 19 Romeo Foxtrot, 365, the 365, 19 Romeo Foxtrot, 365 from the Netherlands. Ah, Henry, ben je er ook aan? Take 211, take 211. Ja, allemaal gelijk, denk ik. Allemaal gelijk, ja. Henry, je bent al, die zet er ook op. Ja, weer gaan. 25 kilometer noordwesten van de Sint-Kool. Naar Bruk. Rijk, ik ben hier. Wat ben je nou, Henry, ja? Ik heb iets bij je, Karel. Kun je dat weten? Ja, wel iets, maar je hebt wel een slechter bij je, hoor, van de schade. Ja, joh, het is druk hier met de buitenlanders, joh. Soms drukken ze jullie gewoon weg. Ja, wat denk ik. Hij zei er mij al van dat ik net lokaal was bij jou. Ja, maar je hebt een dikke linie. Nou, ik heb hem niet echt afstand, hè. Het is gewoon op low. Dus gewoon low, low. En dan ben je hem ook op high zetten. Je hebt het ding voor jou lul. Nee, dat klopt, dat klopt. Dat klopt. Ah, dat kan ik wel een keer doen. Gas geven met het ding. Gas. Oh, dat wil je wel, hè. Als ik hem echt goed strak afregelen. 1000+, hè. FM, 1000+. Oké, oh, dan kun je met Thuis komen. Hij is Thuis. Oh, hij is wat Thuis. Ja, Barry op de wc, of de bak op de wc. Oh, zit op de wc met de bak. Ja, dat kan. Moet je op twee Thuis. Ja, dat is makkelijk. Je kunt ook zo lang lopen. Ja, lekker in de sport nemen. Ja, dat is makkelijk, hè. Een appie en een slokje en een poepie. Recycling. Apple, waar ben je dan? Hallo Zwitserland, dit is Marcel van Holland. Bye bye. We hebben lang op. Zoals net zagen op de website ook, de condities waren allemaal goed. Het is allemaal stabiel allemaal. Ja, want ze zitten op alle kanalen, joh. Dat ben je raad. Ja, ik denk dat ze dadelijk het stierenseizoen hebben. Of kunnen ze er allemaal achteraan vangen? Denk hoe, ja, dan zijn er bij die horens erop. Station from Sweden, dit is die Netherlands. Italy, San Diego 9. San Diego 9 hier from the Netherlands. Ja, Roger. Hier ook eens af toe, San Diego 9. 10 dB's over de 9. 10 dB's over de 9 hier. Very strong. PDK 7813 Division. Standing by. Godverdomme, ze klapt gewoon over elkaar heen, joh, die gekken. Oké, ik ben er rap. Soms hier volle bak hier liggen, joh. Zwart 66 dB over 9 hier. Maar hij drukt bij mij zo'n hele goede noeg elke keer. Yep. Zullen we naar kanaal 8 komen, Jean? Of is dat geen goed idee? Geen je over zitten die buitenlanders. Achter is al rustig, de 2754. Achter. Attenzione, copiate Italia. Italia, pak je maar sta breco. En we gaan ook mee. En we gaan weer lekker. Ja, gewoon achter. Bah. Italia, andava. È stata accurata, arriva ancora più forte, che è curata, non devo dire a te. Tanto, ma che c'è per io, se non vuoi antenna, non andi a loco, Non andi proprio a loco. Beh, se non c'è antenna, non si canta la messa. Ma siccome se non arrivi nei capposotti? Deve essere gente di fuori questa. Sembra di propaganda, però. Prima mai che ascolti qua a nord della Sardegna. Se ci sei riprendo dopo, dai, che sono da cenare. E me l'ho già mangiato, un panino. Ok, altri, ci andiamo, ciao. Ciao, ciao, ciao. Attenzione, copia di Italia, fa chiamata, prego.